Sono le 13 e un minuto. GR24, il sole 24 ore. Nuova bagarre alla Camera, richiamati anche i ministri per votare, ma la maggioranza va sotto. Lampedusa, entro oggi partiranno in 3.000, il Consiglio dei Ministri esamina i rimpatri in Tunisia. Comando NATO in Libia, la denuncia di vittime a Tripoli. Scioperi da stasera fermi i treni, si annuncia un venerdì nero anche per bus e tram. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. Una seduta ancora tesa, quella in corso alla Camera. Ci sono stati nuovi scontri e non solo verbali. Ad un certo punto è stato interrotto anche il Consiglio dei Ministri che era in corso. Allora andiamo subito a Montecitorio per capire cosa è successo e cosa sta succedendo da Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Mattinata decisamente intensa tra Palazzo Chigi e l'Aula della Camera, che hanno vissuto i postumi di quanto accaduto ieri sulla giustizia. Si doveva riprendere infatti a Montecitorio con l'approvazione del verbale sui fatti al centro delle polemiche. Li ricordiamo brevemente: l'aggressione alla russa ieri in piazza, le scintille poi tra quest'ultima e Fini, la votazione del verbale per la quale è stato sospeso il Consiglio dei Ministri, ha visto allora questa mattina andare sotto la coalizione di governo. Da qui la nuova ondata di polemiche. PDL e Lega accusano Fini di non aver dato il tempo ad alcuni ministri di votare, tra questi Alfano. Ma sentiamo allora Corsaro, vice capogruppo del PDL. Ha chiuso la votazione nonostante esattamente davanti a lui ci fossero quattro deputati, ministri del governo, che gli rappresentavano di non essere ancora riusciti a inserire la tessera per il procedimento della votazione elettronica. Ha chiuso la votazione e ha dichiarato il non passaggio della votazione per il risultato di parità. È evidente che se avesse consentito ai quattro ministri di poter esprimere il proprio voto, il voto sarebbe stato favorevole, il processo verbale sarebbe stato approvato. Dall'opposizione si punta il dito sulla russa, sulla sua mancanza di scusa avrebbe facilitato il dialogo, dice dal PD Franceschini. Di Pietro se la prende invece con Alfano, che gli avrebbe tirato addosso la sua scheda elettronica. Sentiamo allora Di Pietro. Con trucchi e trucchetti la maggioranza ha cercato di tirarla alla lunga per raggiungere un quorum che non aveva in aula su un voto proposto dall'opposizione. E quando non c'è riuscito, alcuni ministri hanno fatto un atto che offende il Parlamento, offende le istituzioni e per cui chiediamo le dimissioni. Per dare il senso della tensione che si vive oggi in Parlamento vi è stata un'altra polemica che ha coinvolto la deputata diversamente abile del PD, Ileana Argentin, e il leghista Polledri, e le scuse di quest'ultimo. Ascoltiamo questo passaggio d'aula. Che succede? Basta. Che c'è, onorevole Argentin? Ma stai buono. Presidente, non mi sarei mai permessa, come non ho mai fatto, di togliere la parola a nessuno, tantomeno al collega Scicchietto. Si è appena avvicinato un collega, e già lei sa che questo è avvenuto, per dire al mio operatore che non deve permettersi di applaudire. Allora io ricordo all'Aula che io non muovo le mani. Ma come si permette? Questo dunque il clima che si sta vivendo questa mattina a Montecitorio. Il dibattito sta andando avanti e da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. Allora sentiamo che sta succedendo invece fuori da Montecitorio, in piazza Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. I militanti del Popolo Viola sono tornati puntuali davanti a Montecitorio in concomitanza con la ripresa dell'esame del provvedimento sul processo breve. Per ora la situazione è assolutamente sotto controllo, si trovano regolarmente dietro le transenne di piazza Montecitorio, dove campeggia uno striscione del PD con scritto "la legge è uguale per tutti", mentre i manifestanti gridano "resistenza, resistenza, a casa, a casa". Situazione decisamente più distesa rispetto a ieri, quando i manifestanti erano riusciti ad arrivare a pochi metri dall'ingresso, schiacciando le forze dell'ordine, lanciando monetine contro parlamentari e membri del governo. Colpisce dunque oggi il numero di blindati, che sono una decina rispetto ai manifestanti, che sono solo circa una cinquantina. Il Popolo Viola ha comunque prospettato una manifestazione nazionale per il 16 aprile con partiti di opposizione e sindacati, una mobilitazione permanente fino a quando il provvedimento sarà all'esame del Parlamento. Da Roma è tutto. Grazie anche ad Alessandra Schepisi. Poco fa è intervenuto in tutto questo, in questo clima, anche il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Andrea Viali. diversi anni il Premier è intervenuto telefonicamente ad una iniziativa dei cristiano popolari di Baccini, non ha fatto riferimento a quanto accaduto, a quanto sta accadendo oggi alla Camera, ha parlato più che altro di immigrazione, ha paragonato ad uno tsunami quanto sta accadendo nel Nord Africa, ha ripetuto quanto già annunciato ieri per riportare alla normalità la situazione a Lampedusa, dalle migliorie architettoniche al Porto Franco alla candidatura dell'isola al Nobel per la pace. Il Consiglio dei Ministri, ha detto ancora Berlusconi, sta affrontando in questi momenti il problema degli accordi con la Tunisia, ma sentiamo cosa ha detto. Il governo della Tunisia aveva garantito che avrebbe fermato la partenza di barche dai suoi porti e questo invece non è avvenuto. Noi avevamo promesso un impegno finanziario per una ripresa dell'economia, per creare posti di lavoro in diverse città della Tunisia, di contro al fatto che anche ci fosse da parte del nuovo governo l'accettazione di un rimpatrio di alcuni. Sugli altri temi al centro del dibattito politico, Berlusconi ha detto che a Montecitorio la maggioranza può contare su più di 330 voti contro i meno di 300 dell'opposizione, voti grazie ai quali, secondo il Premier, si potranno approvare provvedimenti importanti. Fra le priorità indicate da Berlusconi, una riforma profonda della giustizia che, ha detto il Premier, fino ad ora non è stato possibile realizzare per i no di Casini e di Fini. Per ora è tutto. E grazie anche a Vincenzo Miglietta. Fin qui i fatti. Io saluto Stefano Folli del Sole 24 Ore. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Che possiamo dire? Scene anche oggi come quelle di ieri. Non sembra essere cambiato molto in aula alla Camera. No, ma la situazione è molto, molto grave, molto preoccupante, perché si ha la sensazione di uno sfilacciamento delle istituzioni e di una situazione in cui palesemente non si riesce a mandare avanti una riforma della giustizia di un qualche respiro, ma si ferma su un contrasto sempre più violento, sempre più aspro, legato a norme discutibili come la prescrizione breve, su cui si affrontano gruppi di opposte tifoserie che producono probabilmente anche una mobilitazione di tipo elettorale, no? Potenzialmente elettorale di questo o quel gruppo, ma che naturalmente fanno pagare un grande costo alle istituzioni e non avvicinano di un passo l'applicazione di riforme che sarebbero magari anche importanti per il Paese. Quindi è un cortocircuito che secondo me è molto preoccupante e per il quale non ci può essere ottimismo circa il prossimo futuro. C'è stata anche una scena, Stefano, di corri-corri da Palazzo Chigi alla Camera ad un certo punto, perché bisognava votare, c'era in corso il Consiglio dei Ministri, tra l'altro con al tema l'immigrazione, i rimpatri in Tunisia, quindi un provvedimento comunque urgente, e c'è stata una fuga verso Montecitorio, anche se non è bastata, peraltro. Sì, dunque, allo scenario generale è molto negativo, no? Perché c'è un'evidente difficoltà ad affrontare il problema dell'immigrazione, anche per quello che diceva adesso Berlusconi, con la Tunisia è molto difficile avere un accordo. C'è una situazione in cui l'Italia è sostanzialmente marginata dai grandi fori di decisione internazionale e c'è il fatto che, nonostante quello che viene detto, i numeri della maggioranza non sono così portentosi, sono numeri risicati che obbligano a questa navetta, a questa continua tensione tra governo, tra sede governativa e sede parlamentare, perché evidentemente la coperta è corta. Ecco, tutto questo mi fa dire che è stato, credo, un errore aver voluto continuare questa legislatura che probabilmente è sostanzialmente finita. Sarebbe stato meglio tornare a votare. E che forse il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel suo discorso a New York qualche ragione ce l'aveva. Ma sicuramente. Napolitano in questo momento rappresenta un punto di riferimento istituzionale molto importante, però anche lui può far poco di fronte al fatto che si sta creando, ripeto, questo cortocircuito tra politica e istituzioni in una forma che non abbiamo sperimentato in questi anni e che ci riporta con la mente a momenti piuttosto bui di un passato che ormai è lontano circa un ventennio. Grazie a Stefano Folli per essere stato con noi. Naturalmente torneremo ancora a parlare di questo argomento. Nel frattempo però andiamo avanti ancora sul fronte dell'immigrazione. A Palazzo Chigi, dicevamo, dovrebbe riprendere a breve il Consiglio dei Ministri ancora per discutere l'accordo con la Tunisia sull'immigrazione, e questa mattina il ministro degli esteri Franco Frattini ha ribadito intanto le accuse all'Europa. Devono essere rimpatriati o verso la Tunisia o distribuiti in altri paesi europei. È clamoroso che non ci sia solidarietà da nessuno dei paesi europei, compresi quelli verso i quali molti tunisini vorrebbero andare, cioè la Francia. La Commissione europea sta lavorando per attivare la solidarietà e redistribuire i rifugiati che arrivano dal Nord Africa, ha detto intanto Michele Cercone questa mattina, portavoce della commissaria europea per giustizia e affari interni. Ma che succede intanto a Lampedusa? Sentiamo in questo servizio. A Lampedusa arriva la grossa nave da crociera Excelsior, sulla quale vengono fatti salire i tunisini che da giorni vivono sull'isola. Dove andranno non si sa. Resta il fatto che si lavora a ritmi serrati per liberare l'isola dall'emergenza. Ci racconta così Cono Calippò, responsabile della struttura di accoglienza per migranti di Lampedusa. Da ieri pomeriggio le partenze sono continue. Fino a questo momento abbiamo già qualcosa come 3.000 persone che stanno per essere imbarcate. Mentre vanno via, altri arrivano. Solo stanotte erano 500, come ci racconta ancora Cono Galipò. Intanto ieri ne sono arrivati 500, fino a stanotte ne sono arrivati 500. Il Presidente ieri ha detto che ogni giorno sarà garantito il trasferimento di quelli che arrivano. Quindi io non ho motivo di non credere al Presidente del Consiglio che se ne arrivano 1.000 ne fa partire 1.000, se ne arrivano 500 ne fa partire 500. Tra i 500 sbarcati questa notte c'erano anche 5 sopravvissuti al naufragio di un barcone. Hanno raccontato che a bordo della loro barca c'era anche un bambino e tanta gente che non è stata più trovata. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E intanto in corso in prefettura Taranto una riunione tra il prefetto e i dirigenti delle forze di polizia per coordinare le operazioni in vista dell'arrivo di altri 2.300 immigrati nella Tendopoli di Manduria. Nella struttura dovrebbero esserci attualmente circa 800 persone, delle oltre 1.370 giunte nei giorni scorsi. 570, si stima, sono fuggiti dopo l'arrivo. La vicenda Manduria è soprattutto un caso politico. Ieri si è dimesso il sottosegretario PDL all'immigrazione Alfredo Mantovano per protesta contro il sovraffollamento del centro pugliese. E dalla scorsa notte non si hanno più notizie del peschereccio italiano Mariella di Siracusa, con a bordo tre italiani. L'imbarcazione di circa 20 metri si trovava nel Golfo della Sirte, in acque libiche, quando ha lanciato la richiesta di SOS. Dopo l'allarme però si sono perse le tracce, come racconta il capitano di vascello Vittorio Alessandro, sempre al microfono di Cristina Carpinelli. Non ci sono novità importanti, nel senso che non è ancora riapparso il rilevamento satellitare che abbiamo perso questa notte dopo la chiamata di soccorso. Stiamo facendo tentativi di chiamata radio e telefonica, la situazione quindi è ancora aperta e nella ricerca sono coinvolte tutte le navi militari e mercantili in zona. E in Libia la NATO ha completato le operazioni di trasferimento del comando dalla coalizione dei volontariosi alle 8 di questa mattina. I raid sono proseguiti, ci sono fonti che parlano di vittime, almeno 40 morti a Tripoli, così stando al vicario apostolico di Tripoli, Monsignor Martinelli. Ma sentiamo l'inviato del Sole 24 Ore in Libia, Alberto Negri. Mentre le truppe di Gheddafi stanno stringendo di nuovo d'assedio a Gheddafia, il nodo strategico a 160 chilometri da Bengasi, è arrivata stanotte la sorpresa. Il ministro degli esteri libico Moussa Koussa ha defezionato e dal Tunisia, dove si era recato nei giorni scorsi, è arrivato a Londra. Il secondo Tripoli in missione, ma il Foreign Office, il ministero degli esteri inglese, afferma che Moussa Koussa ha abbandonato il suo capo, il colonnello, e lui è un personaggio, Koussa, molto importante nelle gerarchie libiche, è stato per molti anni il capo dell'intelligence, è stato colui che ha trattato in questi anni anche il famoso caso Lockerbie, l'aereo che citò nei cieli della Scozia

generatore ambientale, la velocità delle correnti è importante. Questo per dire che oggi a Monaco, in occasione della presentazione dei dati di Goce, che è l'ultimo modernissimo satellite per la misurazione appunto della forza gravitazionale ma anche delle correnti oceaniche, il direttore del progetto per l'esplorazione della Terra dell'Agenzia Spaziale Europea, Volker Liebig, ha voluto insistere anche sull'importanza del grande progetto europeo di osservazione del pianeta, che naturalmente è scientifico, che arricchisce le università, ma che tende sempre di più anche a rispondere alle esigenze di conoscenza di emergenza delle popolazioni del pianeta intera. Per ora la linea e ora è tutto da Monaco, la linea torna allo studio. E grazie anche a Gigi Donelli. La cronaca: perquisizione questa mattina nell'ufficio, nell'abitazione dell'ex sindaco di Bologna Giorgio Guazzaloca, guidò il comune dal 99 al 2004. E in perquisizione nell'ambito dell'inchiesta su Civis, il tram su gomma a guida ottica. L'ex primo cittadino di Bologna risulta indagato per corruzione. Frode alimentari, un altro dossier presentato questa mattina, Nicola Filippone. Sì, buongiorno. La sicurezza agroalimentare rimane un problema di rilevanza centrale, aumentano i reati a fronte di un aumento dei controlli. E quanto emerge dal rapporto sull'attività svolta nel 2010 dal Corpo Forestale dello Stato, vediamo i numeri, in particolare i dettagli di quanto presentato oggi dalla Forestale. Nel settore della sicurezza agroambientale ed agroalimentare sono stati 102 rispetto ai 75 del 2009 i reati accertati. In aumento anche le persone segnalate all'autorità giudiziaria, che passano dalle 64 del 2009 alle 120 del 2010. Gli illeciti amministrativi contestati lo scorso anno sono stati 772 a fronte dei 359 del 2009, per un importo complessivo di 1.525.000 euro. Le regioni dove sono stati effettuati i maggiori controlli nel settore della sicurezza agroambientale ed agroalimentare sono il Piemonte con circa 800, a seguito c'è la Calabria con più di 600 controlli. L'attività di indagine nel 2010 a tutela dei prodotti di qualità certificata ha portato a più di 700 controlli. Tra le operazioni più significative è quella dell'olio deodorato spacciato come extravergine, e sono stati anche molto rilevanti controlli su alcune vendite online sospette di prodotti a denominazione d'origine protetta destinati al mercato estero, che hanno portato in particolare all'identificazione di una ditta del Bresciano che vendeva formaggi come gorgonzola, taleggio, grana contraffatti. Bene, questi sono i dati più rilevanti, è tutto da Roma, a voi la linea. E grazie anche a Nicola Filippone. Un'altra notizia a partire da questa sera, ricordiamo, per chi prende il treno e domani per chi usa i mezzi pubblici, la vita non sarà semplice causa lo sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto pubblico locale e ferroviario. La protesta è per il mancato rinnovo del contratto nazionale. Ma veniamo all'appuntamento calcistico più atteso, -2 al derby di Milano. Dario Ceccarelli. Sì Anna, ormai ci siamo, mancano due giorni al derby, ma ormai il clima è quello da super derby, un derby speciale perché per la prima volta dopo diversi anni in gioco non c'è solo l'orgoglio cittadino ma anche lo scudetto, e così si torna a quel clima da sfottò molto anni 60, di quando il derby veniva atteso per settimane e aveva quel profumo di bar, caldarosta e tutta la mitologia sugli scudetti, le coppe vinte, sul fatto che il Milan è nato nel 1989 addirittura in una sala dell'Hotel du Nord vicino alla stazione centrale, e che l'Inter è una costola nata nel 1908, quindi 9 anni dopo, da alcuni ribelli che si ritrovarono ai tavoli del ristorante L'Orologio in via Mengoni. Ma il derby è soprattutto, dicevo, sfottò barzellette, cabaret, Teocoli, Iannaccia, Battantuono, Bertolino, Alex e Franz. Sentiamo Alex e Franz in un loro vecchio sketch. A lei piace il calcio? Sì, mi piace. Che squadra tiene? L'Inter. Ma non ha detto che le piace il calcio? Eh sì, l'Inter è la squadra del sarcasmo elegante, la squadra degli intellettuali, della fronda, dell'anti-berlusconismo, anche un po' snob. Ma il Milan, dalla sua, ha una storia popolare, anche pre-berlusconiana, nutrita dai rospi della Serie B, della comicità ruspante di Abbattantuono. Sentiamolo quando faceva Attila. Sarò breve e ciccocciso. Oggi, in occasione appunto del Debba, io dico e vi dico, in qualità di condottiere dei Brigate Rossonere, che la parola d'ordine, tanto può cambiare, è sempre la stessa. Juve! Sì, è una violenza molto di coreografia, perché il derby di Milano, va detto, anche nei rapporti tra le tifoserie, è sempre stato corretto, nonostante alti e bassi, rivalità, striscioni, slogan, sfottò, tutto è permesso, anche un rigore all'ultimo minuto, ma tutto con quel sano spirito di competizione molto meneghino, che forse è uno spirito rimasto solo nel derby. E grazie anche a Dario Ceccarelli. Naturalmente, dicevamo meno due, continueremo a parlarne anche domani. Nel frattempo invece ci fermiamo qui. Filippo Reggi in regia. Ancora un saluto da Anna Migliorati. GR24 torna alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.